Ave Maria, quindi vediamo se riusciamo questa sera a cominciare. Si parla della pazienza, quindi ecco, dobbiamo essere sempre pazienti con le prove, ecco, dinanzi a cui siamo sottoposti. E, allora, oggi cominciamo i libri sapienziali con il libro di Giobbe, che è il primo del ciclo dei libri sapienziali che chiaramente iniziamo, ma sicuramente non ce la faremo a terminare entro quest'anno, quindi penso che l'anno prossimo faremo libri sapienziali e profeti, perché come sapete ci abbiamo tutto marzo e tutto aprile, poi proprio il mese di maggio c'è il blocco per le attività connesse al mese di maggio e poi a giugno vedremo il da farsi. Quindi sicuramente non ce la faremo a terminare, perché alcuni libri è bene poi protrarli per più di qualche incontro perché sono molto belli. Comunque, per quanto riguarda il profeta Giobbe, non il profeta Giobbe, allora, è il primo dei libri sapienziali. Il ciclo dei libri sapienziali comprende, speriamo che mi ricordo tutti a memoria, il libro di Giobbe, e allora, non so se vi dico in ordine esatto, però il libro dei Salmi, poi c'è il Coelet, poi c'è il Cantico dei Cantici, poi c'è il Libro della Sapienza, poi c'è il Libro dei Proverbi e poi c'è il Libro del Siracide. Questo è diciamo così, lo stock dei libri sapienziali, di cui appunto Giobbe non a caso è il primo, perché la storia di Giobbe è una storia per tanti aspetti avvincente, ma è una storia sapienziale. Voi sapete che filosofia in greco significa amico della sapienza, cioè sapienza in greco è sofia, quindi filosofi erano, perché adesso sono diventati amici della stoltezza, non della sapienza, ma la filosofia è nata appunto come ricerca della sapienza. La sapienza vuol dire cercare una risposta alle domande più profonde che si agitano nel cuore dell'uomo. Per esempio, chi sono io, perché sono in questo mondo, da dove vengo, dove vado, perché c'è il male, perché c'è la morte, perché c'è la sofferenza. Tutti quanti i filosofi di ogni luogo e di ogni tempo hanno cercato di dare una risposta a queste domande. Perché c'è qualcosa anziché non c'è nulla? Perché? Quindi, cercando quindi di dare alcune risposte. Quindi i libri sapienziali in un certo senso precedono. Voi sapete che la filosofia è cominciata tradizionalmente in Grecia, si dice con Talete, in un periodo posteriore ai primi libri sapienziali, perché Talete sta, se non ricordo male, intorno all'VIII-VII secolo avanti Cristo, se non ricordo male, spero di non ricordare male, di non dirne una di quelle grosse, perché è passato qualche annetto. E, ecco, quindi però con un contesto completamente differente e con una anche metodologia completamente diversa, perché i filosofi facevano delle opere, diciamo così, speculativo sistematiche, poi specialmente i grandi filosofi da Platone, Socrate, Platone e Aristotele in poi. Viceversa, il discorso sapienziale è affrontato nella Bibbia in una maniera un po' particolare. Nel libro di Giobbe c'è la storia di un racconto, delle vicende di un uomo, delle vicende umanamente parlando come dire, sconcertanti, apparentemente ingiuste, ecco, di un uomo santo che si ritrova, vedete lì, nella slide, immagine della slide, completamente distrutto sotto tutti i punti di vista, lo vedremo subito. E altri libri, come per esempio il libro della Sapienza e il libro del Siracide, affrontano i temi sapienziali attraverso la forma. Il libro della Sapienza sembra un trattato per certi aspetti che ha qualche punto di contatto con i modi di trattare questo discorso proprio dei filosofi, mentre i libri del Siracide e dei Proverbi, per esempio, trattano i temi della sapienza attraverso gli aforismi, quindi attraverso delle massime, delle sentenze simili a quelle che sono appunto i nostri proverbi. Il libro dei Salmi lo fa in forma poetica, il libro dei Cantici lo stesso lo fa in forma poetica, descrivendo la storia di amore di un uomo e di una donna. Il libro del Coelet, come vedremo, lo fa il Coelet è attribuito, e io ci credo sempre queste cose qui, a Salomone, quindi sapete la storia di Salomone, uno che ha avuto tutto dalla vita e poi si è andato anche a mettere in un mare di guai. Il libro del Coelet praticamente è la storia che racconta l'autore del Coelet, che secondo la tradizione è Salomone, che dice che per quante cose tu possa avere nella vita, la soddisfazione, il senso, la gioia, nelle cose di questo mondo non la trovi. Ecco, voi sapete che il libro del Coelet, sì, secondo i padri della Chiesa, era uno dei più importanti dei libri sapienziali, perché aveva come fine e come scopo quello di farti venire il disgusto del mondo, cioè di farti smettere di cercare la vita e la felicità in questa vita, perché in questa vita la felicità non c'è. Quindi, vabbè, comunque non parliamo di questo oggi, quindi anche alcune espressioni un po' forti, un po' di pessimismo che vela questo libro, deve essere letto in questo contesto. Ora, nel libro di Giobbe viene affrontato principalmente il tema della sofferenza, perché Giobbe è una persona che viene massacrata sotto tutti i punti di vista, vive tutte le sofferenze in tutti quanti i modi possibili, la privazione dei beni, la privazione degli affetti più cari, la privazione della salute, quindi il male fisico, e il senso dell'abbandono e dello smarrimento da parte di Dio, la sofferenza spirituale. Quindi vive la sofferenza in tutte le sue manifestazioni possibili e lo vive senza aver, come dire, come background una situazione di peccato che l'avesse provocata. Allora, tutta quanta la storia di Giobbe, che è un personaggio storico, non state a dare retta a tutte quante le stupidaggini che dicono gli esegeti moderni, che dicono che Giobbe non è esistito, che questa è una storiella inventata a scopo parenetico, per tipo una sorta di favoletta. Non c'è nessun motivo per dubitare dell'esistenza storica di questo personaggio. La storia è così. Allora, Giobbe è presentato come una persona ricca, benestante e felice, che a un certo punto vedremo viene attaccata e distrutta da tutti i punti di vista per azione del demonio, che chiede il permesso di fare questo a Dio, e con uno scopo ben preciso, lo vedremo poi nei dialoghi, così poi leggiamo senza troppi commenti. Satana va da Dio e dice, o meglio, Dio che provoca, dice: hai fatto tu un giretto sulla terra, hai visto quanto è bravo il mio servo Giobbe? E Satana gli risponde, dice: certo che è bravo, con tutto quello che gli hai dato, gli hai dato la salute, gli hai dato le mogli, gli hai dato i beni, cominciamo a togliere un po' di roba, poi vediamo se continua a essere così santo come dici che è. E Dio gli permette di tentarlo in tutto tranne proibendogli di togliergli la vita. Quindi si capisce che qui viene affrontata la sofferenza come prova. Vi ricordate quando abbiamo parlato di questo fatto? Nella Bibbia ci sono tre spiegazioni filosofiche, diciamo così, del dolore. Quindi perché si soffre? Per tre motivi. Uno, come castigo dei peccati. Questo è un tema costante nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. Non è vero che nell'Antico Testamento Dio castiga e nel Nuovo Testamento Dio non castiga. Questo non è affatto vero, questo qui. Sentite le catechesi di Don Attilio al riguardo. Gesù cita i fatti storici, dice, ricordate, dice: pensate che quelli che quel castigato addosso all'odore di Silo fossero peggio di tutti gli israeliti? Vi dico che se non vi convertite morirete tutti allo stesso modo. Quindi Gesù stesso dà a quell'episodio un'interpretazione in chiave biblico vetrotestamentaria, quell'episodio è un castigo di Dio. Quindi, comunque, oltre al castigo compare questo, la prova, quindi la sofferenza come prova, cioè Dio ti prova attraverso la sofferenza, cioè vuole vedere se tu rimani fedele a Lui anche quando vieni toccato in ciò che ti sta più a cuore. Tema questo molto importante, molto, molto importante anche per noi. Sentiremo alcune parole di Giobbe che bisogna farci un bel quadretto, attaccarsene sopra il letto e leggersene tutti i giorni. Ecco. La terza forma di sofferenza che compare soprattutto nel Nuovo Testamento, con la vicenda ovviamente in primis di Gesù, è la sofferenza del giusto espiatoria, vicaria, cioè il giusto soffre ingiustamente al posto di coloro che dovrebbero soffrire per la loro salvezza. Quindi non ci sono altre forme. La sofferenza, quando uno soffre, cioè è una di queste tre, sempre, non ce ne sono altre in questa vita. Le sofferenze ultraterrene, cioè quelle che capitano dopo, ecco, perché si soffre dopo la morte o in purgatorio o in paradiso o all'inferno. Nel purgatorio la sofferenza assomiglia a quella del castigo, perché il castigo significa castumaggere, vuol dire che ti devo purificare da qualcosa che ti impedisce l'unione beatifica. Invece nell'inferno compare una forma di sofferenza nuova, che su questa terra ordinariamente Dio non usa, che è la punizione, cioè la retribuzione in senso stretto, cioè il contrappasso. Cioè tu vieni punito in maniera proporzionale al numero e alla gravità dei tuoi peccati e in forma ad essa diretta e connessa. Cioè peccato coi sensi soffri in esenzia, peccato di superbia vieni umiliato, peccato d'avarizia vieni privato, eccetera eccetera, peccato di lingua vieni roso dai vermi, tutte queste cose qui. Quindi, però questo aspetto compare dopo, sono le sofferenze dei dannati, non ordinariamente di questa vita. Pensate che il significato del nome Giobbe è già un programma, perché Giobbe significa in ebraico colui che sopporta le avversità. Sapete che è emblematico, si dice anche a parole comune, la pazienza di Giobbe. La pazienza ci porta in cielo, ci porta, è una virtù importantissima, tanto difficile quanto importantissima. Se leggete tutti gli autori di spiritualità e anche nel Nuovo Testamento, San Giacomo Apostolo dice che se una persona non si vede la pazienza, può fare il santarello quanto gli pare, ma è tutto un inganno. La pazienza è il banco di prova se tu sei santo oppure no, quanto sei capace di soffrire senza lamentarti per amore di Dio e di riconoscere nelle circostanze della vita, anche quando soffri, la mano di Dio, perché il segreto è tutto qui, eh? Cioè, se uno fosse capace, si riposa in queste cose, cioè arriva un guaio, quella è volontà di Dio, quella lì. Lo vedremo. È ovvio che, tra l'altro, il libro di Giobbe spiega anche come fanno a succedere i guai, perché i guai sono causati in via immediata e diretta da Satana, ma Satana chiede il permesso al Padre Eterno. Quindi quel guaio che in via immediata e diretta ti causa Satana, in causa prima sta nella volontà di Dio, quindi Dio gli sta permettendo di fare quella cosa perché vuole che tu soffri quella cosa. Se Dio non glielo permette, Satana non può fare assolutamente nulla. Quindi quando ci arriva un guaio, questa è legge assoluta, è volontà di Dio. Qualunque cosa sia, ma ti arrivano anche le cose enormi, ti arriva, non lo so, un rovescio, non lo so, una matti, una calunnia, non lo so che cosa. Dio vuole che tu soffri quelle cose. Certamente che non è lui la causa prima e immediata, perché Dio non fa il male, ma Dio si serve di coloro che vogliono fare il male, che gli chiedono il permesso per il nostro bene, perché i demoni, anche se non vogliono, e questo è il paradosso, fanno la volontà di Dio facendo la volontà propria. Perché in questa vita ci mettono alla prova e ci torchiano, in modo tale che ci fanno diventare santi. All'inferno eseguono i decreti della giustizia di Dio e puniscono i dannati in maniera proporzionale alle loro colpe. Quindi, obtorto collo, comunque devono essere soggetti a quello che Dio vuole. Il libro di Giobbe è ambientato in una località chiamata Uz, che sembra essere dalle parti del territorio di Edom, cioè a sud-est della Palestina. Con questo adesso andiamo subito a leggere qualcuno degli episodi salienti. Adesso dobbiamo cominciare a leggere. Qui vedete quel brutto bell'imbusto in azione. Allora, il capitolo primo, soprattutto i primi due capitoli del libro di Giobbe sono assolutamente da leggere. Sì, da leggere quando qui si è flashato adesso il nostro amico. We apologize for the inconvenience, but Springboard has just crashed. Ok, va bene. Ecco, l'abbiamo rimessa a posto. Ecco, fa niente di serio, niente di grave. Allora, andiamo a leggere questo capitolo 1, che sarà meglio. Allora, viveva nella terra di Uz o Uz un uomo chiamato Giobbe, integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Quindi questo è subito la carta d'identità. E a differenza dei nostri contemporanei, non usava gli anticoncettivi concezionali, perché gli erano nati 7 figli e 3 figlie. Quindi possedeva 7.000 pecore e 3.000 cammelli, 500 paia di buoi e 500 asine, e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande fra tutti i figli d'Oriente. Quindi questa verità è affermata nella Sacra Scrittura, specialmente nell'Antico Testamento. Dio faceva così nell'Antico Testamento, perché, spiega San Tommaso, siccome nell'Antico Testamento l'uomo era un po' rozzetto, Dio, per fargli capire che era contento di te, ti dava delle benedizioni in questa vita. Invece, siccome noi adesso siamo un pochino più raffinati, in questa vita ci dà le suonate e le benedizioni ci riserva per l'altra, d'accordo? Però nell'Antico Testamento l'uomo era ancora un po' rozzo, d'accordo? E quindi doveva dargli le benedizioni anche in questo mondo. Invece oggi, quando uno ha troppi soldi, fa una cosa troppo bene in questo mondo, c'è da temere che il nostro Signore ricompensi quel poco di bene che ha fatto qui e dopo se ne andrà all'inferno. Io, dalle mie informazioni sotterranee, so di molti personaggi eccellenti che pare che stiano nei piani bassi e che in questa vita sono stati molto beneficati da parte di nostro Signore. Chiusa parentesi. I suoi figli solevano andare a fare banchetti in casa di uno di loro, ciascuno nel suo giorno, e mandavano a invitare le loro 3 sorelle per mangiare e bere insieme. Quando avevano compiuto tutto il turno dei giorni del banchetto, Giobbe li mandava a chiamare per purificarli. Perché? Cosa hanno combinato nei banchetti? Si alzava di buon mattino e offriva olocausti per ognuno di loro. Giobbe infatti pensava: forse i miei figli hanno peccato e hanno maledetto Dio nel loro cuore. Quindi vedete, era un papà esemplare, perché stava anche attento che i figli non facessero i peccati, e se li avessero fatti, che fossero purificati. Così era solito fare Giobbe ogni volta. Ora, un giorno i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore e anche Satana andò in mezzo a loro. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Quindi vedete questo che fa dalla mattina alla sera. Ecco. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe, che non è amico tuo? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, timorato di Dio e lontano dal male. Satana rispose al Signore, questa è proprio la sua carta d'identità, ma forse che Giobbe teme Dio per nulla? Non sei forse tu che hai messo una siepe intorno a lui e alla sua casa e tutto quello che è suo? Tu hai benedetto il lavoro delle sue mani e i suoi possedimenti si espandono sulla terra. Ma tu stendi un poco la mano su e tocca quanto ha e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: ecco quanto possiede in tuo potere, ma non stendere la mano su di lui. Vedete? Gli dà il permesso. Satana si ritirò dalla presenza del Signore. Ora, un giorno accadde che mentre i suoi figli e le sue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, un messaggero venne da Giobbe e gli disse: i buoi stavano arando e le asine pascolando vicino ad essi. I Sabei hanno fatto irruzioni, li hanno portati via e hanno passato a figli spade i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Numero uno. Numero due. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: un fuoco divino è caduto dal cielo, si è appiccato alle pecore e ai guardiani e li ha divorati. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Numero 3. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i Caldei hanno formato 3 bande, sono piombati sopra i cammelli e li hanno portati via e hanno passato a fil di spada i guardiani. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Numero 4. Mentre egli ancora parlava, entrò un altro e disse: i tuoi figli e le tue figlie stavano mangiando e bevendo vino in casa del fratello maggiore, quando ecco un vento impetuoso si è scatenato oltre il deserto, ha investito i 4 lati della casa, che è rovinata sui giovani e sono morti. Sono scampato soltanto io per raccontartelo. Chiaro? Full time nel giro di 5 minuti. Ecco. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il mantello, si rase il capo, cadde a terra, si prostrò e disse: ecco, una di quelle frasi che bisogna attaccarsi sopra il letto. Nudo uscii dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto. Sia benedetto il nome del Signore. Benedire il Signore nella tribolazione. In tutto questo Giobbe non peccò e non attribuì a Dio nulla di ingiusto. Non ho detto perché il Signore, io sono tanto bravo, non me lo merito, io non mi meritavo questo, io sono tanto santo, fammi sta zitto che è meglio, eccetera eccetera, insomma, no? Quindi questa è la prima frase chiave. Deus dedit, in latino più bello, Deus abstulit. Poi nella Vulgata c'è: come piacque al Signore, così è avvenuto, sia benedetto il nome del Signore. Questo dobbiamo ricordare, cioè, bisogna benedire Dio nella, tribolazione. Dovete farlo tutti quanti questo qui, eh? Quando capitano i guai, quando muore qualcuno, quando arriva una croce, quando arriva una sofferenza. Il grande Giobbe. Nel capitolo 2 non è mica ancora finito ancora, perché gli ha fatto piazza pulita, gli ha tolto beni e figli, e Giobbe resiste. Allora il diavolo dice: adesso tocca fare qualche altro lavoretto. Accadde un giorno che i figli di Dio andarono a presentarsi al Signore, e anche Satana andò in mezzo a loro a presentarsi al Signore. Il Signore chiese a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dalla terra che ho percorso in lungo e in largo. Il Signore disse a Satana: hai posto attenzione al mio servo Giobbe? Nessuno è come lui sulla terra, uomo integro e retto, dimorato di Dio e lontano dal male. Egli è ancora saldo nella sua integrità. Tu mi hai spinto contro di lui per rovinarlo senza ragione. E Satana rispose: pelle per pelle, tutto quello che possiede l'uomo è pronto a darlo per la sua vita, ma stendi un poco la mano e colpiscilo nelle ossa e nella carne, e vedrai come ti maledirà apertamente. Il Signore disse a Satana: eccolo nelle tue mani, soltanto risparmia la sua vita. Vi invito ancora una volta a riflettere su queste parole. Guardate che tutte le volte, allora, Gesù prima della passione dice queste parole: viene il principe di questo mondo, egli non ha nessun potere su di me, ma bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre e faccio quello che il Padre mi ha ordinato. Chi l'anno scorso c'era, abbiamo fatto il Vangelo di Giovanni, vi ricordate che c'era il libro dei segni e il libro dell'ora? Tutto il Vangelo di Giovanni dice: non era ancora giunta la sua ora, non era ancora giunta la sua ora, non era ancora giunta la sua ora. Nessuno poteva stendere le mani su Gesù, nessuno poteva farlo. Vi ricordate cosa dice davanti a Pilato? Ci ho il potere di metterti in libertà, di metterti in croce, che vuoi tu? Tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Nessuno. Quindi quando capita un guai, chi è che ha ucciso Gesù Cristo? Il demonio. Qual è la causa remota della sua morte? I nostri peccati. Qual è la causa prossima? I giudei. Ma il regista era lui, e l'ha potuto fare perché ha ottenuto il permesso dal Padre. Se no non poteva stendere le mani contro il figlio. Oh, Gesù non c'era nessun peccato. Quindi queste cose bisogna mettersi proprio bene dentro la capocetta e dentro la zucca, eh? Cioè, quando capita un guaio, quella è volontà di Dio. Non è volontà di Dio nel senso che Dio è sadico e ti vuole far star male, ma sta dentro un suo disegno salvifico, e tu non capisci, ma tu quella croce te la devi prendere. Buono, zitto, e non soltanto prenderla, benedicendo il Signore come ha fatto Gesù Cristo e come ha fatto Giobbe prima di lui, che è figura di Cristo. Potremmo già finire qua, d'accordo, perché tutto il resto che viene dopo è tutta quanta, come dire, prosa, ecco, rispetto a tutta quanta, diciamo così, accademia, perché non sono altro che varianti sul tema. Allora che succede? Satana si ritirò dalla presenza del Signore e colpì Giobbe con una piaga maligna, dalla pianta dei piedi alla cima del campo. Giobbe prese un coccio per grattarsi e stava seduto in mezzo alla cenere. In mezzo alla cenere, allora sua moglie, ancora, la seconda volta che le donne fanno così, disse: rimani ancora saldo nella tua integrità, maledici Dio e muori. Ma egli le rispose: tu parli come parlerebbe una stolta. Ecco, vedete la linguaccia delle donne. Se da Dio, salvo voi che non ce l'avete, se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male? Perché? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. Ora la storia di Giobbe che succede? Tutto il libro di Giobbe, quindi questo è l'antefatto. Adesso arrivano tre saccenti, i suoi amici, e cominciano a fargli tutta la predica, perché non è soltanto da tutte le cose, dopo quello c'è pure la predica, e la predica è questa: dice, guarda, se ti è successo tutto questo, qualche cosa l'hai combinata, perché Dio è giusto, quindi con tutti i sicurati sono successi, tu qualche peccato l'hai fatto. Allora, tutto quanto il centro del libro di Giobbe, sono 40 capitoli, è un continuo alternarsi di questi discorsi. Stanno questi tre, Elifaz, Bildad e Sofar, e dopo a un certo punto al capitolo 32 mi sembra se ne aggiunge pure un altro, che non bastavano, Eliud, che cominciano a fare le prediche a Giobbe, prediche sagge, a dirgli: guarda figlio mio, povero te che stai tanto male, che c'è tanta bua, che ti sei fatto tanto così, ma se è successo questo, che cosa hai combinato? Ecco, perché questo è il primo momento in cui compare nell'Antico Testamento il tema della sofferenza slegata dal peccato. Giobbe, uomo giusto e timoroso di Dio, che osservava la legge e tutte le cose, perché soffre? Quindi è la grande risposta a questa domanda. Allora, si accordarono per andare a condividere il suo dolore questi tre amici e consolarlo. Alzarono gli occhi da lontano, ma non lo riconobbero. Levarono la loro voce e si misero a piangere. Ognuno si stracciò il mantello e lanciò la polvere verso il cielo sul proprio capo. Poi sedettero accanto a lui in terra per 7 giorni e 7 notti. Nessuno gli rivolgeva una parola perché vedevano che molto grande era il suo dolore. D'accordo, questo è un po' l'antefatto. Adesso dovremmo tornare alle slide, se Satanasso ci lascia in pace. Stiamo tornando, piano piano, ecco qua. Piano piano, non troppo, vabbè. Allora, torniamo. Ecco, questa è la nostra. No, la nostra è questa. Ok. Quindi abbiamo visto che Satana mette alla prova Giobbe, che perde tutti i suoi beni. Arrivano gli amici. Ecco, nel terzo capitolo Giobbe, con una veste diciamo molto umana, prorompe un grande lamento. Attenzione, questo si può comprendere che accettare le sofferenze non vuol dire che la nostra povera natura umana non soffra. Ecco. Però un conto è soffrire in obbedienza e in adesione alla volontà di Dio, soffrire anche tanto, un conto è soffrire bestemmiando, perché anche Gesù Cristo sulla croce, come sapete, ha detto: Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Gesù ha sudato sangue nel Getsemani. Gesù ha detto al Padre: passi da me questo calice, però non sia fatta la mia ma la tua volontà. E certamente non si è divertito a patire la passione, anche se con la sua volontà animata da un amore immenso per la nostra salvezza e per la gloria del Padre, volentieri si addossava tutte quelle cose. Ecco, cioè, nel senso che la sofferenza dei cristiani non è la sofferenza dei fanatici e non è la sofferenza, come dire, di quelli dei fakiri, d'accordo? Cioè che passano sopra i carboni di fuoco, ci cioè passano solo perché non sentono niente, quindi che fatica ce la fanno, sentono niente, ecco. No, la sofferenza si sente, ma la sofferenza sentita si sente e si offre a Dio in spirito di sottomissione ai suoi voleri. Nonostante che Giobbe stesso vive il dramma del non comprendere il perché quella cosa è capitata a lui, che non aveva dato adito e causa a Dio per vivere quello che stava vivendo. Allora Giobbe aprì la bocca e maledisse il suo giorno, prese a dire: Perisca il giorno in cui nacque e la notte in cui si disse è stato concepito un maschio. Quel giorno divenga tenebre, non se ne curi Dio dall'alto, né brilli mai su di esso la luce. Saltiamo qualche versetto. Si oscurino le stelle della sua alba, aspetti la luce non venga, né veda le palpebre dell'aurora, poiché non mi chiuse il varco del grembo materno e non nascose l'affanno agli occhi miei. Perché non sono morto fin dal seno di mia madre, non spirei appena uscito dal grembo? Perché due ginocchia mi hanno accolto e due mammelle mi allattarono? Così ora giacerei e avrei pace, dormirei e troverei riposo, con i re e i governanti della terra che ricostruiscono per sé le rovine, con i principi che posseggono oro e riempiono le case di argento. Oppure come aborto nascosto più non sarei, o come i bambini che non hanno visto la luce. Là i malvagi cessano di agitarsi e chi è sfinito trova riposo. Anche i prigionieri hanno pace, non odono più la voce dell'aguzzino. Il piccolo e il grande là sono uguali e lo schiavo è libero dai suoi padroni. Perché dare la luce a un infelice e la vita a chi ha amarezza nel cuore? A quelli che aspettano la morte non viene, che la cercano più di un tesoro, che godono fino a esultare e gioiscano quando trovano una tomba, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio ha sbarrato da ogni parte. Perché al posto del pane viene la mia sofferenza e si riversa come acqua il mio grido? Perché ciò che temevo mi è sopraggiunto e quello che mi spaventava è venuto su di me. Non ho tranquillità, non ho requie, non ho riposo ed è venuto il tormento. Questo è il lamento di Giobbe. Ecco, successivamente, andando avanti un pochino, ci sono alcuni passi importanti. Ecco, vedete che quello è uno degli amici, vedete Giobbe tutto quanto piegato, tutte quante le bustolette. Allora, leggiamo uno, così tanto un attimo per capire il tema. Per esempio, le accuse di Elifaz a Giobbe, il capitolo 4 dal versetto 1 al 7 e dal 17 al 20, che li andiamo adesso a vedere insieme. Allora, Elifaz di Tema prese a dire: se uno tenta di parlare ti sarà gravoso, ma chi potrà tenere le parole? Ecco, sei stato maestro di molti, le mani stanche e a mani stanche hai dato vigore. Le tue parole hanno sorretto chi vacillava e le ginocchia che si piegavano hai rafforzato. Ma ora che questo accade a te ti è gravoso, capita a te ne sei sconvolto. La tua pietà non era forse la tua fiducia e la tua condotta integra la tua speranza? Vedete il punto, ricordalo. Quale innocente è mai perito? E quando mai uomini detti furono distrutti? Quindi, se nessun innocente è mai perito e uomini detti furono distrutti, vuol dire che tu sei colpevole. Vi ricordate, no? Anche quando Gesù stava in croce, tutti quanti dice: ah, Dio l'ha punito, quindi non è vero che era giusto, perché se fosse giusto Dio non avrebbe permesso che stava in croce. Quindi se è il figlio di Dio scendi dalla croce. Può l'uomo essere più retto di Dio, versetto 17, o il mortale più puro del suo creatore? Ecco, dei suoi servi egli non si fida e nei suoi angeli trova difetti, quanto più in coloro che abitano case di fango, che nella polvere hanno il loro fondamento. Come tarlo sono schiacciati, sono annientati per il mattino e la sera, senza che nessuno ci badi, periscono per sempre. Non viene forse strappata la corda della loro tenda, sicché si muoiono ma senza sapienza? Quindi vedete, questo fa l'avvocato del diavolo, questo qui, pur essendo... Oh. Nel capitolo quinto ci sono invece alcune indicazioni sulla giustizia di Dio e la correzione, dal versetto 8 al versetto 18. Anche questo è abbastanza edificante leggerlo. Qui Giobbe, vedete lo stile anche del libro, no? Il libro è completamente requisitorio e arringa, requisitorio e arringa. Questi accusano, Giobbe risponde dicendo parole in sua difesa, anche se a tratti resta un po', come dire, sconcertato. Io invece mi rivolgerei a Dio e a Dio esporrei la mia causa, a Lui che fa cose tanto grandi da non potersi indagare, meraviglie da non potersi contare, che dà la pioggia alla terra e manda l'acqua sulle campagne. Egli esalta gli umili e solleva prosperità agli afflitti. È lui che rende vani i pensieri degli scaltri perché loro mai non abbiano successo. Vi ricordano qualcosa queste parole? Ripeto, esalta gli umili, sollea prosperità agli afflitti. Rende vani i pensieri degli scaltri perché loro mai non abbiano successo. La Madonna conosceva bene la Bibbia, quindi l'ha detto il Magnificat, ma nel Magnificat si vede tutta quanta la sua, perché nel Magnificat fondamentalmente la Madonna, salvo qualche aspetto, fa delle citazioni della Bibbia, quindi dal Magnificat si capisce la profonda cultura biblica di Maria Santissima. Per questo che vi ho messo sto passo qui. Egli sorprende i saccenti nella loro astuzia e fa crollare il progetto degli scaltri. Di giorno incappano nel buio, in pieno sole brancolano come di notte. Egli invece salva il povero dalla spada della loro bocca e dalla mano del violento. C'è speranza per il misero, ma chi fa l'ingiustizia deve chiudere la bocca. Ecco l'altra frase da mettere sopra il letto insieme a quella di prima. Perciò beato l'uomo che è corretto da Dio. Non sdegnare la correzione dell'Onnipotente, perché egli ferisce e fascia la piaga, colpisce e la sua mano risana. Questo è un tema tipico dei libri sapienziali. Per quando ci arriva qualche guaio, a noi che non siamo come Giobbe, non siamo come Gesù Cristo, nella quasi totalità dei casi è una correzione di Dio. E quindi cosa di cui bisogna ringraziare, perché i nostri migliori amici non sono quelli che ci lodano e ci blandiscono, ma sono quelli che ci suonano. D'accordo? Questo vale anche per i confessori e per i preti, quindi chi si va a cercare, ma quanto è bravo e comprensivo quel padre, ecco. Io so per certo, vi racconto una storia, tanto non è successa qui, si va a confessare una persona recentemente, X, in una diocesi Y, lontano da qui, tanto non potete, assolutamente non so neanche io chi è, perché mi hanno raccontato la storia qui, e questa persona ha combinato un sacco di guai, d'accordo, tra cui adulteri di vario tipo, e si va a confessare e trova il prete buono, che gli dice, guarda, ah guarda, hai fatto contento il Padre Eterno a venire qui, non ti preoccupare, che ti porto, questo non era pentito per niente, questo qui, frega assolutamente nulla, Ecco, uscito dalla confessione dove ha detto un terzo o un decimo delle cose che aveva fatto, chiaramente questo non gli ha fatto nessuna domanda nonostante che non si confessasse da anni luce, ha uscito dalla confessione e è andato a prostitute. Poi quando dice, ha incontrato un prete meraviglioso, proprio buonissimo, che mi ha trattato tanto bene, ho fatto una confessione meravigliosa. Ecco, capito? Ecco. Va bene, questo è un fatto successo, me lo so per certo, è successo in un posto X, Y, non so né il nome, lo posso tranquillamente, che è successo a me, e non so neanche il nome e il cognome, quindi, e neanche il luogo dove è successo, ecco. Ma so bene i fatti, quindi, va bene, andiamo avanti. Ora, un altro tema, la vita terrena è una valle di lacrime, i libri sapienziali, tutti un po', ci hanno... Per questo prima ce lo mettiamo in testa e meglio è, perché non a caso Santa Romana Chiesa ci mette nella bocca le parole della Salvo Regina. Ecco. A te ricordiamo noi esuli figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Tanto che tu lo accetti oppure no, che ti piace oppure no, che fai, tanto sempre valle di lacrime rimane. Ci sono alcuni uomini stupidi che fanno, questa è una valle di lacrime, cercano tutti quanti i modi per divertirsi e per godere, ma tanto poi gli svegli gli arrivano lo stesso, non è proprio possibile, cioè non è possibile passare la vita terrena facendo percorso netto, non è possibile, d'accordo? Quindi uno prima se lo mette in testa, questo è meglio è, e fa tesoro delle cose buone. Questo è sempre Giobbe, l'uomo non compie forse un duro servizio sulla terra e i suoi giorni non sono come quelli di un mercenario, come lo schiavo sospira l'ombra e come mercenario aspetta il suo salario. Così a me sono toccati mesi di illusione e notti di affanno mi sono state assegnate. Se mi corrigo dico quando mi alzerò. La notte si fa lunga e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e di croste polverose la mia carne, era aggrinzita la mia pelle e si dissolve. I miei giorni scorrono più veloci di una spola, svaniscono senza un filo di speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene. Quindi, è molto bene, cioè la considerazione del fatto che la vita terrena è una valle di lacrime, non serve a farci vivere col muso lungo, i muso uniti e torvi con le gane, dice, oh, povero me, che me tapino, me disgraziato, eccetera, eccetera. Ecco, però serve semplicemente a farci vivere la vita in maniera realistica, cioè, non è inutile che ci facciamo aspettative particolari. Se la gente dice, ah, ma vorrei tanto sta un po' in pace, vorrei tanto sta un po' tranquillo, dico, guarda, è sbagliato indirizzo, qui, guarda. Il pianeta Terra, se cerchi questo, è proprio sbagliato abitazione. Se vuoi stare un pochino tranquillo, cerca di non combinare troppi guai, perché forse ci staremo un po' tranquilli in paradiso. Qui no, scordatelo proprio, ecco. Perché tanto una ne passa e la nuova ne arriva, quindi un guaio finisce e altri due ne cominciano, quindi non c'è scampo. Ora, un altro tema importante è la fede nelle prove. Stiamo vedendo già la fede di Giobbe. Nella tribolazione soffre, ma non dispera, perché sa di stare nella madre di Dio. Nel capitolo 19, sempre nel lamento, questo assume dei vertici che addirittura fanno del libro di Giobbe addirittura un antesignano di una verità di fede, tanto è vero che questa lettura si legge anche nei funerali, che è appunto il dogma della risurrezione della carne. Qui, dopo che gli hanno dato un altro po' di tormento, Giobbe prese a dire: fino a quando mi tormenterete e mi opprimerete con le vostre parole? Sono 10 volte che mi insultate e mi maltrattate in modo sfacciato. E poi è vero che io abbia sbagliato e che io persista nel mio errore? Davvero voi pensate di prevalere su di me rinfacciandomi la mia vergogna? Sappiate dunque che Dio mi ha schiacciato, mi ha avvolto nella sua rete. E poi continua a dire tutte quante le cose che Dio gli ha fatto. Adesso saltiamo un po': acceso contro di me la sua ira, versetto 11, e mi considera un suo nemico, eccetera, eccetera. I miei fratelli si sono allontanati da me perché i miei familiari mi sono diventati estranei, sono scomparsi vicini e conoscenti, mi hanno dimenticato gli ospiti di casa, chiamo il mio servo e non mi risponde, il mio fiato è ripugnante per mia moglie, faccio ribrezzo ai figli del mio grembo, anche i ragazzi mi disprezzano, se tento di alzarmi mi coprono di insulti. Mi hanno in orrore tutti i miei confidenti, quelli che amavo si rivoltano contro di me, eccetera, eccetera. Perché dunque vi accanite contro di me, come Dio, e non siete mai sazi della mia carne? O se le mie parole si scrivessero e si fissassero in un libro, fossero impresse con stilo di ferro e con piombo, per sempre si incidessero nella roccia. Io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere, dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne vedrò Dio. Ed è la fede nella vita eterna. È il primo punto dell'Antico Testamento in cui appare e traspare con questa evidenza. Io lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. Eccetera, eccetera, eccetera. Questa infatti è una delle letture che si legge nei funerali. La fiducia e la speranza, quindi vedete, già c'è un superamento nell'Antico Testamento. Se tu sei buono, Dio ti benedice dandoti prosperità e abbondanza di beni terreni. Qui Giobbe, attraverso la sofferenza, capisce che la vera retribuzione di Dio non è la benedizione dei beni terreni, ma la vita eterna. Per questo San Paolo scrive nel Nuovo: le sofferenze della vita terrena non sono paragonabili alla gloria che deve essere manifestata in noi. E infine nel capitolo 28 c'è l'elogio della sapienza. Anche questo è molto bello, questo capitolo qui, che andiamo subito a vedere insieme, in parte, almeno in parte. E allora, leggo qualche versetto. L'argento ha le sue veniere, l'oro un luogo dove si raffina, il ferro si estrae dal suolo, il rame si libera fondendo le rocce, eccetera, no? Versetto 12. Ma la sapienza da dove si estrae? E il luogo dell'intelligenza dov'è? L'uomo non ne conosce la via. Essa non si trova sulla terra dei viventi. L'oceano dice: non è in me. E il mare dice: neppure presso di me. Non si scambia con l'oro migliore la sapienza, né per comprarla si pesa l'argento. Non si acquista con l'oro di Ofir, né con l'onice prezioso o con lo zaffiro. Coralli e perle non meritano meglio menzione, eccetera, eccetera. Versetto 20. Ma da dove viene la sapienza? E il luogo dell'intelligenza dov'è? È nascosta agli occhi di ogni vivente, è ignota agli uccelli del cielo. Versetto 23. Dio solo ne discerne la via, lui solo sa dove si trovi. Perché lui solo volge lo sguardo fino all'estremità della terra e vede tutto ciò che è sotto la volta del cielo. Quando diede al vento un peso e delimitò le acque con la misura, quando stabilì una legge alla pioggia e una via al lampo tonante, allora la vide e la misurò, la fondò e la scrutò appieno e disse all'uomo: ecco il timore del Signore, questo è sapienza. Evitare il male, questo è intelligenza. Altra frase da prendere e da scriversi sul letto, il numero 3, e da farsi un bel quadretto. Quindi la sapienza, cioè che tu conosci i segreti arcani dell'origine dell'universo, tutte le cretinate che si fanno provare adesso, che tutte le stupidaggini, tutte quante le scimmie da cui pensano che sia derivato l'uomo, il Big Bang, che ci fa tutte queste cose qua. Dice: a che giova, Gesù dice nel Vangelo, all'uomo guadagnare il mondo intero o sapere chissà che o chissà che cosa se te ne vai all'inferno? L'imitazione di Cristo riprende pari passi alcune basi, dice: se tu sai tutte le cose, conosci tutta la scienza dei filosofi, ma che te ne importa? Quando te ne vai di là, il Padre non ti chiede quello che sai o quello che hai studiato, ma ti chiede quello che hai fatto. Per questo che la sapienza delle sapienze è il timore del Signore. Temere Dio vuol dire osservare i suoi comandamenti, avere il senso della sua grandezza, che se dice una cosa si deve fare e si fa punto e basta. Ed evitare il male, questo è intelligenza. Per chi fa il peccato è uno stupido, fondamentalmente. Bene, andiamo verso la conclusione, anche perché è tardi. E andiamo rapidamente verso l'epilogo. Allora, che succede? A un certo punto ci sono al termine del libro di Giobbe due discorsi. Leggiamo una piccola parte. Allora, quindi parlano prima, si alternano Giobbe e i tre amici. Perché nel capitolo 32 mi sembra compare Eliud, peggio ancora, che fa una predica lunga, una filippica tipo quelle di Celentano, per farvi un attimo capire. E dopo a un certo punto finiscono, il padre Eterno dice: adesso basta, adesso parlo io, ecco, grazie a Dio. E dice un po' di cose, tra l'altro un pochino di cose che in parte erano già state intuite da Giobbe, adesso lo vedremo, per questo che abbiamo letto questo qui. Il Signore prese a dire a Giobbe in mezzo all'uragano: chi è mai costui che oscura il mio piano con discorsi da ignorante? Ce l'ha con Eliud, Cingiti i fianchi come un prode, io ti interrogerò e tu mi istruirai. Quando ponevo le fondamenta della terra, tu dov'eri? Qui Dio comincia una requisitoria su coloro che si mettono a giudicare le sue opere e che vogliono capire tutto. Allora, dice: vuoi capire tutto? Bene. Ma quando ponevo le fondamenta, tu dov'eri? Dimmelo se sei tanto intelligente. Chi ha fissato le sue dimensioni, se lo sai? Chi ha teso su di essa la corda per misurare? Dove sono fissate le sue basi? Chi ha posto la pietra angolare? Chi ha chiuso tra due porte il mare? Eccetera, eccetera. Da quando vivi? Hai mai comandato al mattino e assegnato il posto all'aurora? Sei mai giunto? Io vado un po' a singhiozzo, versetto 16: alle sorgenti del mare e nel fondo dell'abisso hai tu passeggiato? Sei mai giunto, versetto 22, ai depositi della neve? Hai mai visto i serbatoi della grandine? Eccetera, eccetera. Ha forse un padre la pioggia, versetto 28, chi fa nascere le gocce della rugiada, eccetera. No, questo continua con tutte queste cose. E al capitolo seguente continua ancora. Forse il bufalo acconsente a servirti o a passare la notte presso la tua greppia, eccetera. Puoi dare tu, versetto 19 del 39, la forza al cavallo, rivestire di criniera il suo collo. Quindi c'è tutto quanto un elenco, tutte quante le cose che Dio fa e con cui provvede, e che le sbatte davanti a Giobbe, tutto il capitolo 39, ecco. E nel capitolo 40 dice: dopo tutto quello che ti ho detto, il censore vuole ancora contendere con l'onnipotente? L'accusatore di Dio risponda. Giobbe prese a dire al Signore, ecco, altra cosa da mettere sopra il letto, eh? Ecco, non conto niente, che cosa ti posso rispondere? Mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta, ma non replicherò, due volte ho parlato, ma non continuerò. Fine del primo discorso, subito dopo comincia, secondo discorso, non lo leggiamo, che tanto è simile al primo. Il Signore prese a dire in mezzo a Giobbe nell'uragano, cingi di fianchi come un prode, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Oseresti tu cancellare il giudizio di Dio, il mio giudizio, dare a me il torto per avere tu la ragione? Cosa che fanno tutti quanti gli uomini, tutti. Hai tu un braccio come quello di Dio? Puoi tonare con voce pari alla sua? E continua, è più bello il secondo, secondo me, del primo. E poi ve l'andate a leggere. Noi andiamo soltanto a vedere l'ultima risposta di Giobbe, al 42,6. Al capitolo 42, Giobbe prese a dire al Signore: comprendo che tu puoi tutto e che nessun progetto per te è impossibile. Chi è colui che da ignorante può oscurare il tuo piano? Davvero ho esposto cose che non capisco, cose troppo meravigliose per me che non comprendo. Ascoltami e io parlerò, io ti interrogherò e tu mi istruirai. Io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Perciò mi ricredo e mi pento sopra polvere e cenere. Quindi attraverso la sofferenza Dio, Giobbe afferma di aver imparato a conoscere Dio. Fondamentalmente una cosa, che i giudizi di Dio non possono essere soggetti al giudizio nostro. Se Dio dispone una cosa, per quanto ti possa sembrare strana, tu te la prendi e se non capisci perché non fa niente, perché basta che il perché lo sappia il Padre Eterno. Quindi, a Dio non si chiede perché delle cose, A Dio quando accade una cosa si dice: Deus dedit, Deus abstulit, fiat voluntas tua. Stop. Il perché lo sa lui. Qualche volta, se vuole, lo spiega, ma se non lo spiega, va bene lo stesso. Questo è l'insegnamento profondo del libro di Giobbe. Allora, a questo punto si va all'epilogo. Numero uno, Dio condanna gli amici di Giobbe e gli dice: dopo che il Signore ebbe rivolto queste parole a Giobbe, disse a Elifaz di Teman, quello che abbiamo letto, il primo che ha cominciato a dire: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete detto di me cose rette come il mio servo Giobbe. Prendete dunque 7 giovenchi e 7 montoni e andate dal mio servo Giobbe e offritegli un olocausto per voi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi e io, per riguardo a lui, non punirò la vostra stoltezza, perché non avete detto cose di me cose rette come il mio servo Giobbe. Ovviamente questi tre subito sono andati e hanno fatto come aveva detto loro il Signore, e il Signore ebbe riguardo di Giobbe. Non è finito. Siccome Giobbe ha sopportato tutto con pazienza, il libro di Giobbe finisce con la reintegrazione ad opera di Dio di Giobbe in tutti i suoi beni. E lo andiamo subito a vedere. Il Signore ristabilì la sorte di Giobbe dopo che egli ebbe pregato per i suoi amici. Quindi, non solo, dopo che ha pregato e perdonato quelli che l'avevano tormentato nella sofferenza. Quindi vedete come Giobbe è figura davvero prefigurativa di nostro Signore Gesù Cristo. Infatti il Signore raddoppiò quanto Giobbe aveva posseduto. Tutti i suoi fratelli, le sue sorelle e i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, banchettarono in casa sua, condivisero il suo dolore e lo consolarono di tutto il male che il Signore aveva mandato su di lui, e ognuno gli regalò una somma di denaro e un anello d'oro. Il Signore benedisse il futuro di Giobbe più del suo passato. Così possedette 14.000 pecore anziché di 7, 6.000 cammelli anziché 3, 1.000 paia di buoi anziché 500 e 1.000 asine. Ebbe anche 7 figli e 3 figlie. Questi sono uguali. Altri 7 e altri 3. Alla prima mise nome Colomba, alla seconda Cassia e alla terza Argentea. In tutta la terra non si trovarono donne così belle come le figlie di Giobbe. E il loro padre le mise a parte dell'eredità insieme con i loro fratelli. Dopo tutto questo Giobbe visse ancora 140 anni e vide figli e nipoti per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Quindi Questo fa comprendere una cosa, ecco. Questa è una cosa tipica dell'Antico Testamento. Nel Nuovo Testamento questo discorso è corretto, perché non sempre Dio premia, anzi quasi mai, sulla terra, ma premia dopo. Qui ricompare chiaramente al termine del libro di Giobbe il tema tipico dell'Antico Testamento, perché comunque alla fine la prova che Dio è stato contento di te, di quello che hai fatto, è la benedizione anche nei beni materiali di questa vita. Chiaramente questo aspetto nel Nuovo non si trova, perché la benedizione di Dio sia attraverso il dono della vita eterna e le ricompense che per queste piccole tribolazioni ci darà quando lui vorrà in paradiso. Bene, con questo penso possiamo mettere punto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Amen.